Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, per fermare Garibaldi, il governo dichiara lo stato d'assedio. Le parole di Garibaldi a Palermo, il suo attacco all'alleato francese Napoleone III, hanno scosso alla fine il governo. Se finora l'atteggiamento dell'esecutivo Rattazzi e soprattutto del re hanno fatto sospettare una certa acquiescenza verso una nuova spedizione garibaldina contro Roma, ogni dubbio ora è cancellato. Il 31 luglio il re ha richiamato il prefetto di Palermo Pallavicino Trivulzio, colpevole di aver permesso a Garibaldi di insultare in pubblico l'imperatore dei francesi senza reagire. Al suo posto ha nominato prefetto e comandante militare dell'isola il generale Efisio Cugia. Poi il 3 agosto, a scanso di equivoci, ha emanato un proclama. Italiani, nel momento in cui l'Europa rende omaggio al senno della nazione e ne riconosce i diritti, è doloroso al mio cuore che giovani inesperti e illusi, dimentichi dei loro doveri, della gratitudine ai nostri migliori alleati, facciano segno di guerra il nome di Roma. Quel nome al quale intendono concordi i voti e gli sforzi comuni. Fedele allo statuto, da me giurato, tenni alta la bandiera dell'Italia, fatta sacra dal sangue e gloriosa dal valore dei suoi figli. Non segue questa bandiera chiunque violi le leggi e manometta la libertà e la sicurezza della patria, facendosi giudice dei suoi destini. Italiani, guardatevi dalle colpevoli impazienze e dalle improvvide agitazioni. La responsabilità e il rigore delle leggi cadranno su coloro che non ascoltarono le mie parole. Re acclamato dalla nazione, conosco i miei doveri. Saprò conservare integra la dignità della corona e del Parlamento per avere il diritto di chiedere all'Europa intera giustizia per l'Italia. Abbiamo saputo che il sovrano ha fatto arrivare all'eroe dei due mondi una lettera scongiurandola a desistere dall'impresa condannata all'insuccesso, ad evitare una guerra civile perché il governo, ha scritto, lo avrebbe fermato con tutti i mezzi ed anche con la forza. Garibaldi ha reagito con atteggiamento sprezzante e da Ficuzza, dove erano già radunati 3.000 volontari, si è mosso per Mezzo Iuso, quindi per Caltanissette e poi per Regalbuto. I deputati Mordini, Fabrizi, Calvino e Cadolini si sono presentati a lui offrendo una mediazione con il governo. Lui ha aggirato l'esercito a Paternò e il 18 è entrato trionfalmente a Catania. Il suo contingente si è rafforzato raggiungendo i 5.000 uomini e ha raccolto anche nuovi fondi per l'impresa. Ma il 20 il governo ha deciso lo stato d'assedio in tutto il sud. La guerra civile è dietro l'angolo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.